al suono. O cieli, la squilla vicino un rito annunzia. Abbrica e giunge all'altar, si rapisca, appara, taci, non ovo, andate. In quei paci all'ombra celatevi, a tra poco via mi verrà, tutto mi investe in poco. Rapirti a me, ma non può,